Europa 24. Buona giornata da Valentina Furlaneto, benvenuti a Europa 24. Nell'attuale situazione la Turchia non è nella posizione di diventare a breve un membro dell'Unione Europea. Parole del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che in una lunga intervista alla televisione francese commenta tra le altre cose l'ipotesi di una reintroduzione della pena di morte in Turchia e la minaccia del terrorismo in Europa. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha colto l'occasione di un passaggio da Parigi per rilasciare una lunga intervista alla televisione francese questa mattina, in cui ha toccato tutti i grandi temi del momento: la minaccia terroristica, la libera circolazione e il desiderio del Regno Unito di lasciare l'Unione. Ha ribadito che solo una risposta europea può consentire ai 28 di meglio difendersi contro il terrorismo e di meglio proteggere le frontiere aperte in Europa. Sul fronte inglese ha confermato la richiesta alla Gran Bretagna di chiarire rapidamente le sue intenzioni. Juncker ha anche avvertito che con il ripristino eventuale della pena di morte la Turchia vedrebbe chiudersi le porte dell'Unione. Tra crisi interne e crisi esterne, l'Europa sta attraversando un momento di grande incertezza sul suo futuro. In particolare, sul versante della sicurezza, non è chiaro se i recenti attacchi indurranno i paesi a maggiore integrazione oppure si faranno questi attirare dalla risposta nazionale a tutta prima, apparentemente, più efficace e veloce. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Alle parole di Juncker si sono aggiunte quelle del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. La repressione degli ultimi mesi e degli ultimi sviluppi dopo il golpe, sottolinea, determinano una rottura nel processo di adesione della Turchia all'Unione Europea. Nella presente condizione la Turchia non appartiene certamente all'Europa, conclude Schulz, rilevando che la reintroduzione della pena di morte determinerebbe la fine dei negoziati di adesione. E se è stata secca la replica di Ankara, i rappresentanti dell'Unione Europea non devono fare dichiarazioni minacciose sul fatto che la Turchia non potrà entrare nel blocco, ha detto il ministro degli esteri turco Cavusoglu. Non ci faremo scoraggiare dalle loro minacce, Juncker non può parlare guardando la Turchia dall'alto in basso, ha aggiunto, non lo accetteremo. Il G20 finanziario rinnova gli sforzi per la crescita alla luce delle incertezze generate dalla Brexit ed esprime l'auspicio di vedere in futuro la Gran Bretagna come un partner stretto dell'Unione Europea. Questo è il messaggio della dichiarazione congiunta finale del vertice dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali delle principali economie sviluppate ed emergenti che si è chiuso ieri a Kenshu, capoluogo della provincia centro-meridionale cinese dello Sichuan. Il comunicato, che parla anche di lotta alle fonti finanziarie del terrorismo e di rischi da fattori geopolitici, impegna a evitare le svalutazioni valutarie per far salire l'export. Ci opporremo a ogni forma di protezionismo, si legge inoltre. E la premier britannica Theresa May è oggi in visita a Belfast per cercare di rassicurare l'Irlanda del Nord sul post-Brexit. A meno di 2 settimane dalla sua investitura ufficiale dopo Scozia e Galles, la premier britannica Theresa May conclude oggi con l'Irlanda del Nord il suo tour nei paesi del Regno Unito. Dopo il voto del 23 giugno sull'uscita dall'Unione Europea, è in visita a Belfast per cercare di rassicurare sulla possibile imposizione di controlli alle frontiere e di nuove misure doganali. Londra, ha ricordato Downing Street, intende coinvolgere il governo dell'Irlanda del Nord nella preparazione della Brexit. Ho messo in chiaro che renderemo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea un successo, ha sottolineato la leader dei conservatori. Ciò significa che questo deve valere anche per l'Irlanda del Nord, comprese le sue relazioni alla frontiera con la Repubblica d'Irlanda, membro dell'Unione Europea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il GR europeo di oggi, curato in questa edizione da Maria Luisa Pezzali, condotto da Valentina Furlaneto. Vi auguro una buona giornata. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.